Stellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, i teatri sono chiusi ma il teatro continua e allora per parlare proprio di teatro, delle esperienze teatrali dei grandi attori italiani abbiamo con noi oggi Alessio Buoni. Buon pomeriggio Alessio. Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Allora Alessio, la prima domanda è: quando è che sei salito per la prima volta su un palcoscenico? Ah, bella questa domanda. Allora, stavano preparando i Sette contro Tebe, io mi stavo preparando per entrare a far parte dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quindi questo insegnante che si chiamava Andreas Rallis, un greco cipriota, preparava il saggio del primo anno. Fece una settimana di repliche, l'ultimo giorno Matteo Chioatto, me lo ricorderò sempre, un ragazzo che faceva un messaggero dei Sette contro Tebe, si ruppe la gamba di sera dopo lo spettacolo, andando a casa in moto, fece un incidente, si ruppe la gamba. Il giorno dopo c'era la domenica ed era una giornata importantissima perché c'erano molti dei delegati, domenica pomeriggio, persone importanti, eccetera, c'era pieno teatro. Lui mi chiamò di notte dicendomi: guarda, devi anche leggerlo, a me basta che tu lo leggi e portiamo a casa lo spettacolo. E invece tutta la notte, siccome sapevo già il testo perché avevo seguiti per un mese di prova, eccetera, feci un messaggero nel Sette contro Tebe, appunto, di Eschilo, con la regia di Andreas Rallis, sul palcoscenico, proprio buttato dentro così, con una maschera addosso, uno scudo, e un peplo di lino bianco, e vi posso garantire che l'adrenalina era a mille, il cuore mi arrivava in gola, ma ce l'ho fatta e da lì è stato proprio il primo debutto ed era l'89. Poi dopodiché hai fatto cinema, hai fatto TV, hai fatto tutto, però al teatro ci ritorni sempre, sei stato recentemente a Verona, so che stavi preparando prima di questo nuovo mini lockdown uno spettacolo, di che cosa si tratta? Allora, ho parecchie cose che dovevo riprendere. Uno si chiamava Ballata per Cesare Pavese a San Stefano Belvo, proprio la fondazione di Cesare Pavese, purtroppo hanno chiuso per il lockdown. Il 7 novembre dovevo essere a Rossini di Trieste per fare insieme a Francesco Libetta, questo grandissimo pianista, un monologo su Ludwig van Beethoven con il testo di Maria Bianca Maria Melasecchi. Poi dovevo fare altre letture, ma sono un po' saltate tutte. Avevo anche in mente di fare una lettura su Dante, sulla vita nova, eccetera, accanto al mio amico Marcello Praia in concertato a due, ma siamo tutti ormai in stand-by. Mi sono arrivate proprio oggi tante disdette e non sanno cosa rispondermi. Allora, senza dover per forza difendere il mio settore, anche se lo difendo a spada tratta, perché puoi immaginare, per me senza cultura non c'è un paese, non c'è un'identità, ma sono già frasi che abbiamo sentite e dette da tutti quanti. Però credo che con 21.000 contagiati, più di 21.000 contagiati, vi ricordo che il lockdown di marzo è stato fatto con meno di 4.000 quasi, 4.000 contagiati, bisognerebbe fare un altro lockdown. Ma non, mi diventa molto bizzarro il pensiero che chi vende palestre, piscine, teatri e cinema pensino di abbassare il contagio. Questo mi fa molto sorridere, mentre tutti vanno al lavoro in metropolitana con gli autobus, con i tram e quant'altro, o si assembrano dentro negozi. Mi sembra molto strano tutto questo, come pensano di abbassare il contagio fermando quattro settori, che sono minoritari. Poi io ho fatto anche una ricerca e sembra che solo uno spettatore abbia contratto il coronavirus in tutta Italia andando a teatro. Un caso, cioè. Senti, bizzarro. Un po' bizzarro. E la cosa che ti piace di più invece quando sali sul palcoscenico rispetto a quando giri magari un film? No, allora la cosa tantissima che mi piace è quella concentrazione che devi avere prima di andare sul palcoscenico e andare dietro il sipario. Questa è fondamentale, la tua concentrazione, che ognuno ha la sua, uno può arrivare due ore prima, uno e mezza prima, uno mezz'ora prima, quello che vuole, però è quella concentrazione, una sorta di trance, una specie di training autogeno, porti dentro la tua memoria, inizi a fare esercizi vocali, ti vesti, ti trucchi, senti il fruscio della gente che arriva, il rumoreggio, poi si apre il sipario e ti butti come un box sopra quel quadrato per cominciare a darsi totalmente al pubblico e sentire questa energia, questa sorta di terapia di gruppo fra palcoscenico e la platea. Questa è la cosa più potente. Poi dopo, ovvio, se senti quanto quanto il pubblico risponde, ti rendi conto nell'arco dello spettacolo se è attento o meno gli applausi finali, ovviamente ci mancherebbe, si sente se scrosciano spontaneo, se sono di circostanza, ci sono tante situazioni, ma il momento più che stai con te stesso, con il personaggio, con lo spettacolo, con gli altri attori eccetera, è proprio il momento in cui ti prepari prima di andare in scena, che apre un sipario, proprio prima della prima battuta. Il Covid per esempio, no? Io ho sentito le tue giuste critiche, non può dare una spinta anche per quello che potrebbe essere il teatro a distanza? Poi alla fine è chiaramente una pezza, però magari si potrebbe cominciare a pensare a qualcosa di simile? Oppure secondo te il teatro è dal vivo e basta? Ma se si dovesse andare avanti per parecchi mesi e tempo, probabilmente dovremmo anche pensarci, certo. L'unica cosa che ti dico è che se quell'energia che si instaura tra lo spettatore e l'attore, dietro uno schermo la perdi. Tante volte abbiamo visto degli spettacoli teatrali meravigliosi, visti poi dopo, che sono in televisione, perdono tutto. Ma perdono tutto anche perché non c'è il tempo minuzioso per poterlo registrare. Magari si registra piattamente con una macchina da presa in fondo, una di lato, e finisce lì dietro le quinte. Le registrazioni, quando io le ho fatte, ci giri due pomeriggi, punto e stop. Ed è uno spettacolo magari di 2 ore, quando per fare un film di 2 ore a volte dei grandi autori ci impiegano anche 6 mesi a continuare a girare minuziosamente le cose, allora una dietro l'altra quei fotogrammi che vengono montati, che adesso non sono più fotogrammi ma è la stessa cosa, il montaggio poi dopo crea quel film che ti fa volare. Allora, se tu hai il teatro, ti metti lì a disposizione e fai le riprese anche di 15 giorni e fai venire fuori uno spettacolo meraviglioso, quello si può fare benissimo, si può fare anche domani, potremmo farlo anche domani questo, non so, a me non si pensa, non si vuole fare, comunque è questa la differenza. Quando fanno le riprese teatrali di solito sono un po' piatte, a meno che, come hanno fatto gli inglesi con l'Amleto in Inghilterra eccetera, c'è una console meravigliosa, c'è un regista spaventoso che conosce a meno a dito lo spettacolo, posiziona 12 telecamere, sa come andare sul primo piano di Amleto piuttosto che di Gertrude, che Dio Feglia, e tu spettatore in streaming pagando un biglietto minimo puoi assistere a quello spettacolo meraviglioso, perché senti anche le reazioni e gli applausi degli spettatori in scena. Però quello è assolutamente pensato, è studiato, è lavorato per andare su un altro codice che non è dal vivo ma che è appunto lo schermo. Allora ci devi pensare, è una regia diversa, e quella regia diversa lì purtroppo è difficile da applicare in Italia, perché i teatri già vivono sugli spiccioli. Applicare una cosa del genere, che sarebbe meravigliosa, ma consta di 12 telecamere, se non 12, 10, se non 10, 8, ma di una console, di un regista, e sono cifre spaventose, sono costi spaventosi che non possiamo permettercelo. E questa è la differenza. Qual è il momento della tua carriera, anche lunga, in teatro, che ti ha emozionato di più? Quando c'è stato quello spettacolo che ti è entrato dentro l'anima, quell'attimo che hai sentito un'ebbrezza diversa, anche se poi ogni sera un attore che recita sul palcoscenico la sente. Sì, ogni sera la sente, ogni sera poi fai il tuo spettacolo. Adesso io ho la fortuna di poter fare con il mio quartetto la regia, sceglie anche i testi, la drammaturgia eccetera, quindi è sempre un evolversi, un divenire. Però non posso scordarmi la prima volta che mi ha preso Giorgio Strella dopo un provino per fare l'avaro di Molière, facevo Cleante, il figlio di Artagone, che era interpretato da Paolo Villaggio. E quando c'è stata la prima, c'era un parterre pazzesco a Milano, al Lirico, quella è un'emozione che non mi dimenticherò mai, come quando abbiamo vinto Cannes con la proiezione della Meglio Gioventù con Marco Tullio Giordana alla Sala Debussy, e quella giornata fu magnifica, magistrale. È uguale, è stata la prima sicuramente al Lirico dell'avaro di Giorgio Strella di Molière, perché quello è indimenticabile. 1700 persone che applaudono a un boato o all'unisono alla fine, che ti invadono per 10 minuti, e tanta roba. Quale spettacolo vorrei mettere in scena appena finisce questo mini lockdown e appena, speriamo subito, ci sarà un vaccino per il Covid? L'Inferno di Dante Alighieri, andando giù nei vari gironi, cavolo, mi divertirei troppo, perfetto secondo me. E tu chi vorresti interpretare, Dante o Virgilio? Virgilio, Dante lo lascio fare ad altri, non un poeta, Virgilio, oppure Caronte, adesso vediamo, oppure un diavolo, vediamo. Ah, ecco, no, non ti metteresti a fare il poeta, insomma. No, faccio fare qualcun altro poeta. No, farei Virgilio oppure un diavoletto. No, sarebbe interessante, sarebbe divertente con tutto quello che stiamo passando. Allora, grazie Alessio Boni, speriamo che i teatri rivengano aperti il prima possibile. Ci si rivede allora a teatro. A dicembre, speriamo, prima di Natale. Un abbraccio a tutti. Adesso andiamo a Mantova, dove online va in scena Segni, Festival Internazionale d'Arte e Teatro per le Nuove Generazioni, dal 31 ottobre all'8 novembre sulla piattaforma segniinonda.org. L'organizzatrice Cristina Cazzola. Per la prima volta in 14 anni siamo costretti a cancellare il festival. Segni 2020 Live, sarebbe stata la 15ª edizione, non ci sarà. Non ignoravamo sin dal principio la possibilità di trovarci di nuovo in una situazione che per il nostro ambito rappresenta un nuovo lockdown, e per questo abbiamo creato lo spazio Segni in Onda, uno spazio che vuole essere un luogo di incontro per operatori e garantire alle compagnie la visibilità che speriamo possa un giorno far riprendere la circuitazione. Io quest'anno ho previsto sia in quello che doveva essere il live che in quello che sarà l'online, quindi Segni in Onda, un programma che, come quando si va ad un festival, abbia una tessitura con dei rimandi fra temi e contenuti capaci di attivare un dialogo a più livelli, anche fra addetti ai lavori. La piattaforma è uno spazio accessibile a tutti, Segni in Onda è gratuito per una nostra precisa scelta di cui vogliamo farci carico e i cui costi ci facciamo carico. Ma gli artisti ricevono un compenso, come è giusto che sia. Online non vuol dire lavoro gratis dei professionisti del settore. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it anche per segnalarci spettacoli online in attesa che i teatri riaprano. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.